Io sono una finestra velata di vapore in questa notte gelida, deserta ed incolore. Rispecchia la finestra, la carne, le emozioni di me che sono specchio delle contraddizioni. Difficile vedere se il vapore non svanisce l'appiccicoso errore di chi non capisce, eppure si riflette un'ombra che è la mia, un'ombra di rossetto contro l'ipocrisia. Io non so mai chi sono, eppure sono io, anche se oltre il vetro per me non c'è mai un Dio. Ma questo qui è il mio corpo, benché cangiante e strano, di donna dentro un uomo, eppure essere umano. Sfogliando le parole di questa età corriva, divento moralismo e fantasia lasciva, crisalide perenne costretta in mezzo al guado. Mi specchio alla finestra e sono mio malgrado. Io non so mai chi sono, io sono per la gente, coscienza iconoclasta, volgare, irriverente. Ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo, comunque essere umano. Io non so mai chi sono, eppure sono e vivo, più del pregiudizio che scortica cattivo. Ma quando spio il mio corpo, che si riflette piano, non c'è una donna o un uomo, solo un essere. Mai chi sono, eppure sono e vivo, più del pregiudizio che scortica cattivo. Ma quando spio il mio corpo che si riflette piano, non c'è una donna o un uomo, solo un essere umano. Io sono una finestra che aspetta che il vapore svanisca come un sogno.